le grida delle madri accanto ai figli uccisi, i crani massacrati di cose semplici. È fatta la nostra storia, inchini, altari alla patria e monumenti alla memoria. E come potevamo cantare col piede straniero impresso sul cuore? E come potevamo sentire il tempo che ora scivola freddo? E quando mi toccavi la spalla chiedendo di pregare ancora, io ti rispondevo nel sogno, è il vento che scuote le memorie. È come se Dio nascesse, preghiera per preghiera. È come se ogni ostaggio impugnasse la sua storia. Come potevamo sentire